Devo dire che è stata una grande corsa contro il tempo, ma alla fine ci tenevamo particolarmente a essere anche quest'anno presenti nel Parco della Montagnola. Ormai l'Arci c'è da 10 anni, forse anche di più, e non volevamo mancare a questo appuntamento. Per cui con grande fatica, combattendo e lottando contro la burocrazia e contro i vari ostacoli, siamo riusciti comunque quest'anno, anche grazie alla collaborazione del nostro circolo Binario 69, a mettere in piedi una programmazione che partirà questa sera con un'anteprima, con un appuntamento organizzato dalla FIOM, e che poi proseguirà ad agosto e anche a settembre, nel mese di settembre, con un programma culturale molto interessante. Quindi insomma una rassegna che ci farà compagnia per tutta estate, vista anche, come dire, un po' la povertà che già nel periodo estivo c'è in città per quanto riguarda le rassegne culturali, soprattutto ad agosto, e poi ovviamente anche per la questione Covid. Come vi siete attrezzati per affrontarla? Stiamo cercando di rispettare quello che prevedono i vari protocolli. Abbiamo cercato quest'anno di immaginare due aree che siano distinte, una dedicata al bar e al ristoro, che sarà sempre gestita dai ragazzi del circolo del circolo Arci Binario 69, e un'area invece che sarà dedicata agli spettacoli. Questo per cercare appunto sempre di poter controllare le situazioni, e quindi anche di poter in qualche modo provare a contingentare gli ingressi, soprattutto nella parte dell'area spettacolo, che sarà comunque recintata e controllata. Ci saranno naturalmente tutte le informazioni del caso, cartellonistica e quant'altro possa essere utile per sensibilizzare le persone all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza che sono necessari, e cercheremo comunque, come abbiamo sempre fatto, di responsabilizzare soprattutto le persone nel rispetto degli altri, insomma. Quindi queste sono un po' le misure che abbiamo provato a mettere in campo, ma più che altro la cosa che ci tranquillizza è il fatto che da anni ormai siamo presenti nel parco e siamo riusciti sempre a costruire un rapporto comunque di fiducia e di rispetto all'interno delle nostre rassegne con le persone che hanno partecipato, quindi confidiamo molto negli altri, ecco. Quindi ci saranno ingressi contingentati, diciamo, le iniziative sono gratuite, però i posti possono andare esauriti. Sì, i posti chiaramente ci sarà una capienza da rispettare, quindi verranno controllati, però chiaramente bisognerà rispettare delle capienze per quanto riguarda l'accesso agli spettacoli, che si terranno prevalentemente durante il fine settimana, mentre durante tutta la settimana sarà comunque aperta l'area bar, l'area ristoro, con una radio, insomma con piccoli intrattenimenti, ecco. E quando avete accettato di realizzare questa rassegna estiva alla Montagnola, è stata un po' anche una sfida, no? Perché quel contesto è, non nascondiamolo, aveva dei problemi. Il vostro intervento in questi anni com'è stato? Cioè ha cambiato un po' anche il volto del parco? Ma io sono convinta che quello che siamo riusciti a fare in questi anni è stato fondamentale, importante per rigenerare il parco. È chiaro, ci sono stati degli anni molto molto complicati, ma noi siamo stati sempre convinti che le iniziative culturali, i centri estivi e le iniziative che abbiamo organizzato per i bambini e per le famiglie siano stati assolutamente utili ed essenziali per poter riaprire nuovamente il parco alla città. È un lavoro che siamo convinti vada portato avanti con costanza, perché è chiaro che anche la chiusura durante il Covid, il fatto che per un periodo di tempo il parco sia stato inaccessibile o comunque non ci sia stata la possibilità di organizzare delle iniziative, non sia stato positivo per il parco, ma siamo convinti che una presenza costante di tante realtà, perché poi il parco è un parco aperto, un parco pubblico dove ci sono anche tanti soggetti, c'è una scuola, c'è un chiosco, ci siamo noi, ci sono diverse associazioni che promuovono delle iniziative. Io credo che questa sia la ricetta fondamentale per poter rigenerare uno spazio, la Montagnola come tanti altri spazi, la presenza di persone, la presenza di cittadini che promuovano iniziative e che partecipino alla vita di quello spazio, che lo attraversino quotidianamente e che lo sentano proprio, e per sentirlo proprio è necessario appunto che tutta la città faccia la sua parte.